stanco, mi sto stancando. Arranco, sbando, non sto buono a comando. Un sorso d'alcol non mi aiuterà. Quando entro al bar, ci esco barcollando. Barista manda qualche bevanda, fanne tanta, non avanza nel momento, la mente mi incanta. Parlano a sproposito, ho una domanda, è meno di 30 anni, perché dici era meglio nei 90? Meglio a 90, ti incanta, sta tipa fica, lei 20 anni e tu 50. Sopra di te a valanga, con le amiche si vanta. Non ama te, ama il tuo conto in banca. Sei un maiale, in senso doppio, perché sei un porco, sì. E non sarai mai Ale. Tutti king, tutte miss, ma tu mi stai sul cazzo. Faccio una mista al razzo spaziale. Parlo papale papale, al papa le scarpe le passa Prada. Si svaga e prega per la crisi mondiale. Improvvisi sorrisi, qua è uno scempio totale. Sta vita è un temporale, mi guardo il tempo reale. Non mi aspetto niente da nessuno, prendono e non danno. Tutti vogliono e non fanno, tutti credono e non sanno. Prima si amano, poi si odieranno, è tutto un inganno. Per non pensare a questo che io fumo, oh, oh. Aspetto il sole, ma fuori piove. Aspetto un raggio, un messaggio e non parole. Cambio umore, perché qui fuori piove. A quante minchiate crediamo per felicità, ci diamo facciate e continuiamo, che senso ha? È una follia, un'agonia, resti in balia di una bugia. La forza mia, la credibilità. Non sono il migliore, non ci piove, non ho prove in mano. Ma quando rappo un trattore, Provenzano, un giocatore, ci metto il cuore. Impegno e sudore, forse arriverò lontano. Parto da Bolzaneto, con in testa ideali. La mente frena, io vado avanti. Diventi cieco, troppe le seghe mentali. Da sta scena uscirò solo con i piedi davanti. Medito sull'esito, dedico al rap ogni mio gemito. È lecito, vivo di illecito. Rimo mi medico, pago ogni debito. Non recito, voi infami, fratelli gemito. Sono io, resto identico. Tra paradiso oblio, non lo dimentico. Certi discredito, voi boom. Tutti ricchi con l'iPhone, ma ti chiamano con l'addebito. Fuori dalla media della mia generazione. Voi con l'ansia di essere preda, io vivo da predatore. Hai fame, rubi rame, o sei un macellaio. Farei parte del bestiame se passano le ore. Aspetto il sole, ma fuori piove. Aspetto un raggio, un messaggio e non parole.